le idee delle stanze, insolente promessa sciocca, vacua solenne di bastare a sé. Yeah. ad ogni strenua decisione o voto contrario. Mi trovo imbarazzato, sorpreso, ferito. Per un'errata sensazione di peggioramento.